Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Avvocato, eccomi qua, scusi, no, ho avuto un problema enorme, imprevedibile, mi stavano scappando le galline dal vestito. No, non è vero. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, 9-8 minuti, con voi fino alle 11, con tante argomentazioni e tanti temi. Oggi parliamo di referendum, torniamo sulla scuola, parliamo della vicenda del cittadino bengalese che aggredì una donna un anno fa ed è già libero. Avremo il procuratore capo di Matera sulla vicenda dello stupro di gruppo nei confronti di due quindicenni e soprattutto abbiamo il vostro contributo, se volete 800 24 00 24 o 349 238 6666. Guardalo lì l'alpino. Abbiamo anche qualcosa da dire contro la Svizzera. È così, Elisabetta Fusconi si è animata di fronte a questa parola, Svizzera, chissà perché. Insieme a Lorenzo Nespoli e Emilia Lucchetti ci siamo, Alpino, siamo pronti. I will not be easy, and it will not be easy. Prima cosa voglio dirla così subito sulla scuola, perché tornando sul tema di ieri voglio fare anche un invito, un appello. Cari ascoltatori, avrete lasciato da poco i vostri figli a scuola. Mi segnalate con dei WhatsApp audio al 349-238-6666 se nelle scuole dei vostri figli li obbligano a tenere la mascherina anche seduti al banco se c'è il distanziamento di almeno un metro. Perché ad esempio dove va mio figlio è così. Ecco, sappiate che non esiste alcuna norma di supporto a questa linea che alcune scuole tengono. Non esiste alcuna norma. Ieri ne parlavamo dicendo che in Lombardia alcune scuole si rifanno a una delibera della Regione Lombardia del 10 settembre, interpretando la quale delibera queste scuole dicono in maniera restrittiva, diciamo, i bambini devono stare anche con la mascherina quando sono seduti. La Regione Lombardia ha comunicato, mi hanno scritto, sono abbastanza indignati perché dicono in quella delibera non c'è assolutamente detto questa indicazione. La Regione Lombardia si rifà, come tutte le regioni, alle linee del Ministero, non c'è una restrizione ulteriore, in quella delibera non c'è scritto da nessuna parte che i bambini, i ragazzini e le ragazzine debbano tenere la mascherina quando sono al banco fermi. La possono togliere, tanto che la Regione Lombardia ha scritto al provveditore agli studi, all'ufficio regionale scolastico, che faccia sapere alle scuole che questa è una norma non richiesta da nessuno. È la classica via all'italiana: se ci chiedono di fare 5, noi facciamo 10 o 20 dal punto di vista burocratico. Se ci chiedono di rispettare 5 norme, facciamole ancora più stringenti, così nessuno ci potrà fare causa, rompere le scatole, eccetera. Però io lo dico a tutela di tutti i vostri figli, non esiste, lo ripeto, alcuna norma, alcuna indicazione di nessuna commissione scientifica, di nessun istituto superiore di sanità che dica che i ragazzi al banco, se è rispettata la distanza, debbano tenere per 6-7 ore la mascherina sempre sulla bocca e sul naso. Quindi segnalatemi se invece qualcosa non va, se invece dei vostri figli ci dicono di tenerla anche al banco, perché è inutile, non è prescritto da nessuno. Al 349-238-6666. Allora, quelli che mi scrivono molti, se non c'è il metro la mascherina deve essere tenuta. Per la verità, se non c'è il metro già è una situazione di irregolarità. Quindi se non c'è il metro, io sto parlando di chi seduto mantiene il metro di distanza garantito. Se non c'è il metro di distanza è già una situazione di illegalità, dovrebbero stare a casa, cioè la didattica a distanza, questo è dato di fatto. Se viene mantenuto il metro non serve la mascherina. Va bene, detto questo, noi partiremo a parlare di referendum adesso. Devo dire anche una cosa che mi ha colpito chi? Beppe Grillo. Prima ve lo voglio far sentire. Beppe Grillo dice in sostanza che è paradossale che funzionino meglio le dittature delle democrazie. Certo che funzionano meglio le dittature, con un piccolo particolare, che la tua libertà di cittadino viene presa e messa nel gabinetto. Ogni decisione di Singapore, di Taiwan, è presa attraverso una domanda ai cittadini. Volete, come volete che siano impiegati i vostri fondi pensione? Come volete la vostra energia sia pianificata con delle smart grid? Come volete? Chiedono delle domande nei paesi dove c'hanno un dittatore, dove il primo ministro è il figlio del re. Allora, oggi è paradossale che funzionino più le dittature che le democrazie. No, non è paradossale, da sempre funzionano meglio da un certo punto di vista, dal punto di vista del rispetto dell'ordine, perché se non lo rispetti o se pensi di dire A alla lettera A, hai già a volte un bastone che ti si riversa tra capo e collo, non lo so, cioè, mi sembra una banalità, è paradossale che le dittature funzionino meglio delle democrazie, ma da che mondo è mondo? È così, meglio, dipende da mettersi d'accordo cos'è il meglio. Sì, funzionano meglio, basta che decidi che la tua libertà non conti nulla, basta che decidi che il dissenso possa essere stroncato con una manganellata o con qualche anno di carcere. Vabbè, che dire, cari ascoltatori, vogliamo tuffarci sul tema referendum. Anche oggi, poco fa c'era il ministro degli esteri Di Maio, ma qui quello che vogliamo fare è ospitare una voce per il sì, una voce per il no e discutere e capire che cosa si pensa di questa votazione. Io dico, per quel che riguarda il Viminale, le preoccupazioni del Ministero dell'Interno, che si sta pensando, ma questa questione tecnica, non parlo del voto in sé, questione tecnica, si sta pensando di far dare delle corsie preferenziali agli anziani, perché il timore è che si creino delle file e che si creino delle problematiche di persone in coda, quindi file prioritarie agli anziani, alle donne incinte, e l'invito a votare magari lunedì alle 7 del mattino, non andare a votare nelle ore di punta, poi insomma vedremo un po'. Allora, noi abbiamo chiamato due persone a parlare di referendum, una voce per il sì e una voce per il no. La voce per il sì è quella di Elisabetta Gualmini, che saluto, politologa e eurodeputata del PD. Buongiorno e benvenuta. Ci sente? Sì, sì, benissimo. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, Gualmini. Saluto, ci raggiunge tra un attimo Arianna Furi, che è fondatrice dei Millennials, che è invece per il no, ci raggiunge tra qualche istante. Vorrei chiedere intanto a lei, Elisabetta Gualmini, perché votare sì? Ma guardi, i motivi sono tendenzialmente tre. Il primo è che quasi mille parlamentari non esistono da nessuna parte del mondo in democrazie simili alla nostra, ed è ampiamente noto come le assemblee meno pletoriche funzionino meglio di quelle larghissime, e in più questa riforma è stata proposta non solo da tutti i partiti ma dal centro-sinistra, nel mio caso, sin dal 1983. Un secondo motivo è che la rappresentanza non c'entra nulla con questo taglio circoscritto di parlamentari. In verità noi abbiamo anche 900 consiglieri regionali in Italia e circa 100 deputati europei. Tutti si occupano di rappresentanza, e io sfido chiunque ad andare per strada e chiedere al cittadino al bar se conosce i suoi parlamentari a Roma e se sa quali fondamentali riforme hanno fatto e hanno scritto nella storia della nostra Repubblica. Quindi lei dice è un po' singolare che si tiri fuori la questione della rappresentanza, visto che nessun cittadino con questa legge elettorale di nominati, tra virgolette, conosce il proprio rappresentante nelle istituzioni. Esattamente, non ne conosce neanche uno, diciamo che se ne avrà 10 come suo riferimento, non 16, francamente non ne cambierà la sua vita né in un modo né in un altro. E poi c'è un terzo motivo, piaccia o non piaccia, a partire dagli anni 80, quando le società sono diventate più complesse, i problemi più intricati, sono i governi in realtà in tutto il mondo che si accollano la gran parte del lavoro di decisione, del lavoro di riforma. Le assemblee parlamentari sono certamente rilevantissime, ma spesso sì, hanno un ruolo notarile e recepiscono quello che fanno i governi. Quindi, francamente, piuttosto che 1600, io penso che vada benissimo. Saluto allora Arianna Furi, eccoci qui, buongiorno. E ciao, buongiorno, benvenuta, grazie. Arianna Furi, fondatrice Millennials, che parte dell'Assemblea Nazionale di Italia Viva ed è schierata per il no. Ha sentito Elisabetta Gualmini, chiedo anche a lei, banalmente, perché no, di esporre i motivi di questo no al referendum. Allora, io lasciatemi dire, insomma, che è molto interessante, prima di spiegare, insomma, per quale motivo sono a sostegno del no, come soprattutto nelle ultime settimane il fronte del no si stia arricchendo di tantissimi giovani, perché nell'immaginario comune siamo sempre quelli più propensi, no, al cambiamento. Invece questa volta, soprattutto, in particolare, ci sentiamo di dire che forse il cambiamento non è sempre, insomma, a priori la strada giusta. Perché banalmente ci troviamo di fronte a una riforma che non è niente di più che un semplice populismo. Cioè, qual è l'obiettivo di questa riforma? Tagliare il numero dei parlamentari. Ok, e quindi, cioè, cosa abbiamo risolto tagliando il numero dei nostri parlamentari? A risparmiare non abbiamo risparmiato. Lo stesso Sole 24 Ore ci ha spiegato nei giorni scorsi che il taglio dei parlamentari inciderebbe sulla spesa pubblica italiana solo per lo 0,07%. Sì, si parla tra i 70 e 80 milioni l'anno. Sì, meno del costo anno, insomma, di un caffè a testa. La nostra democrazia non credo che valga questo. Interi territori non verrebbero rappresentati e soprattutto, visto che si parlava del rapporto tra cittadini e rappresentanti eletti alla Camera, se lo confrontiamo con quello degli altri paesi europei, l'Italia diventerebbe praticamente il paese peggiore in Europa per il rapporto tra il numero di cittadini e deputati, diventerebbe, se non sbaglio, ultima tra 28, incluso anche il Regno Unito. E soprattutto passerebbe un'immagine sbagliata che sinceramente mi sento di dire che fa paura, cioè quella di questi grandi striscioni con enormi forbici che tagliano poltrone. Cioè una riforma che insegue la semplificazione dei temi, che parla al peggiore populismo, come se tagliare semplicemente delle poltrone ristabilisse una sorta di giustizia verso una classe politica criticata. La qualità della politica secondo noi non corrisponde al numero dei politici. Noi non vogliamo, insomma, assistere a una sorta di demolizione del valore delle istituzioni fatta a colpi di ragionamenti su costi e risparmi. Aggiungo magari, Arianna Furi, i giovani, se mi permette, i giovani impegnati e interessati politicamente. Io non so quanti giovani siano davvero consapevoli di quello di cui si va a votare domenica e lunedì, però certamente non è una colpa semmai essere ignoranti e non interessarsi a quello che succede alle istituzioni. Ripartirei da Elisabetta Gualmini e se, questa cosa dei costi e dei risparmi la vogliamo una volta chiarire, smarcare dal punto di vista di entrambe, nel senso, per lei Elisabetta Gualmini, questo è usato anche come uno slogan, un caffè all'anno per ogni italiano, qualcuno dice ma se anche si risparmiassero 100 euro l'anno va meglio piuttosto che spenderne 100 euro in più. La questione dei costi, quanto del taglio dei costi, quanto incide per Gualmini per votare sì? No, guardi, per me non incide assolutamente nulla e spiace sentire appunto i giovani che la pensano così, cioè che pensano che l'argomento costi sia quello al centro. Ovviamente qualsiasi risparmio di spesa pubblica secondo me non va né denigrato né snobbato, perché siamo in una fase, in una situazione in cui anche cifre minime di fronte a sofferenze di famiglie, di persone sono importanti, ma non c'entra nulla la questione costi. E tra l'altro non è assolutamente vero, e lo dico da docente di scienza politica, che si abbassa il ruolo dei rappresentanti rispetto ai cittadini, perché se si confrontano veramente le assemblee parlamentari giuste, cioè quelle dove i senatori e i deputati fanno un lavoro per tutto il giorno, cioè a tempo pieno e a tempo indeterminato, il numero è assolutamente nella media, quindi è un argomento sbagliato. Secondo, non va bene l'argomento populista, cioè non è che noi per abbattere il nemico o perché i 5 Stelle, che pure hanno moltissimi difetti, dicono una cosa che il centro-sinistra, il centro-destra hanno detto da 40 anni, cioè per forza dobbiamo dire no. Non c'entra nulla l'argomento populista, c'entra il fatto che non abbiamo bisogno di 1000 parlamentari per fare un lavoro che si può fare in maniera più circoscritta, e soprattutto non dobbiamo dare l'impressione che le istituzioni siano irriformabili. Questa è una riformetta, non è la migliore riforma del mondo, è circoscritta, è piccola, non rivoluzionerà il cambiamento di nessuno di noi, però apre il varco, una breccia magari, per altre revisioni che giustamente si faranno dopo, non prima della riforma costituzionale. Allora, cercare la riforma sublime vuol dire rimanere immobili. Ecco, io proprio, spiace, è proprio su questo punto. Se Arianna Furi vuole replicare sul tema costi, e aggiungo, la critica è, con l'idea di dire ma se si fa questa riforma senza la riforma elettorale si finisce poi nel rischio del pantano e l'immobilismo italiano, per cui non si fa nulla. Per cui chi è per il sì dice almeno iniziamo a fare una cosa e poi le altre seguiranno. Prego. Allora, per quanto riguarda la questione costi, è ovvio che non sia il tema principale, ma il problema è che io la reputo, come tanti ragazzi, una riforma populista, perché è indubbio che serva una riforma costituzionale nel nostro paese, ma magari una riforma organica della pubblica amministrazione, della scuola, della giustizia, del fisco. Però cioè, mi sembra che è molto più facile dire, far passare questo messaggio, che abbiamo tagliato le poltrone e abbiamo eliminato gli sprechi e colpito la cassa, piuttosto che proporre riforme serie. È vero che c'è l'impegno di fare una legge elettorale per far sì che questa riforma sia effettivamente lavori bene, però l'idea della riforma elettorale poi si farà, cioè stiamo parlando della nostra Costituzione, è una cosa seria, non possiamo cambiare la nostra carta e prenderci un impegno ipotetico basato sul nulla per una futura modifica che non si sa bene quando arriverà. Non siamo riusciti a metterci d'accordo sull'età di chi doveva votare i senatori, pensiamo di avere un governo in grado di mettersi d'accordo entro fine legislatura su una riforma elettorale. Io non credo. Io vorrei inserire questo argomento legato alla politica. Si ragiona molto, e sento molti ragionamenti, bisogna votare o sì o no in funzione di quella che è la possibile tenuta o crisi di governo. E sapete bene quali sono le varie posizioni dei partiti. Secondo lei Elisabetta Gualmini, tra l'altro facendo parte di un partito, si dice con la libertà di voto o diviso, cioè non con una linea comune sul voto al referendum, questo discorso va tenuto in considerazione oppure bisognerebbe solo votare per quello che uno pensa sul referendum? Assolutamente la seconda, che i cittadini votino sul merito di questa piccolissima, ripeto, riforma indolore. Non c'entrano nulla le sorti del governo, e anzi il governo deve essere ben affaccendato su altri fronti, cioè sul far ripartire il paese e risolvere i problemi degli italiani, ci mancherebbe. Ripeto, si possono fare riforme meravigliose, se qualcuno avesse la bacchetta magica possiamo riformare la pubblica amministrazione, l'economia, il mondo, i mercati, però guarda caso ci abbiamo provato per tantissimi anni anche a fare una riforma organica delle istituzioni, che è stata sonoramente bocciata, la ricordo, quella del 2016, dai cittadini. Per cui continuare a dire che la riforma è populista e quindi fa schifo vuol dire esattamente confermare l'idea di istituzioni che per sempre saranno immobili. E faccio presente anche che la legge elettorale non c'entra nulla con la riduzione dei parlamentari, non c'entra nulla. Dopo si potranno fare correttivi, ma anche tramite cambiamento dei regolamenti. Con la riduzione, ma con la rappresentatività. No, con la rappresentatività, però. Sulla rappresentatività. Si potranno fare piccoli correttivi con legge ordinaria, che deve essere fatta dopo una riforma di rango costituzionale, non prima, come dicono alcuni. Ma in verità saranno ritocchi minimi, ripeto, non cambierà nulla per la vita dei cittadini. È un modo finalmente per inserire una revisione sana. Non si capisce perché tutti i partiti l'hanno votata in Parlamento e adesso in realtà non andrebbe più bene. O perché già nell'Assemblea Costituente si diceva che quasi 1000 parlamentari erano troppi e adesso nel 2020 addirittura abbiamo bisogno di 1000 pigiatasti, sì. Perché è chiaro che molti pigiano i tasti, questo lo dico in maniera molto vabbè, questo, molto questo anche vera. Magari per il fatto che c'è ormai l'organo legislativo vero invece che il Parlamento con i decreti legge da anni, non adesso, è diventato più l'esecutivo, è diventato più il governo. Comunque vorrei una replica su da Arianna Furi sul tema partiti e indicazione dei partiti, futuro del governo. Aggiungo, visto che lei fa parte di Italia Viva, come questo no si giustifica con la riforma proposta da Renzi nel 2016, quella che sappiamo, che portò poi alla crisi politica e alla caduta dell'allora Premier. Prego Furi. Per quanto riguarda la posizione dei partiti, in realtà sarebbe interessante capire per quale motivo magicamente il PD era per il no alle prime tre votazioni Camera e Senato, poi improvvisamente alla quarta cambia idea, sembra fatta davvero con l'unico scopo di non far cadere il governo, però magari sono io che sono malpensante. Per quanto riguarda Italia Viva, noi anche abbiamo libertà di voto, ma diciamo che non paragonerei assolutamente la riforma del 2016 con questa riforma. Quella riforma prevedeva anche il taglio dei parlamentari, che era una sorta di conseguenza a tutto ciò che si proponeva, come ad esempio quello di sbloccare il nostro paese. Cioè viviamo in un paese in cui per legiferare velocemente si usano in maniera spropositata decreti legge, quando semplicemente basterebbe rendere più veloci Camera e Senato. Cioè tagliare i parlamentari per far restare il bicameralismo perfetto mi sembra davvero una presa in giro. Cioè sembra quasi, ok, non siamo stati in grado di spiegare magari correttamente agli italiani nel 2016 che cosa proponevamo di fare, lasciamo perdere, non siamo in grado di farlo, quindi accettiamo la visione populista e diciamo va bene, vi accontentiamo, tagliamo questi parlamentari che non fanno niente tutto il giorno, ma sì, lasciamo questa idea della politica sbagliata. Secondo me invece bisogna trattare gli italiani in modo intelligente e bisogna spiegare loro che tagliare semplicemente per me non rappresenta semplicemente neanche un passo in avanti, perché è semplicemente qualcosa fatto per accontentare il discorsetto che si può fare al bar del tipo lo vedi? Abbiamo mandato a casa la cassa. Per risolvere cosa? Non abbiamo sbloccato il paese. Allora, vogliamo chiudere con un minuto a testa? Io sono l'arbitro, come vedete, non sono qui con cronometri, non siamo a quelle tribune politiche nelle quali c'è un rigore assoluto, però vi chiedo, diciamo, di stare in un minuto. Ricordo io che chi vota sì porta al taglio di 345 parlamentari e chi vota no invece mantiene la situazione e quindi non entra in vigore la riforma costituzionale. Ricordo anche che non c'è quorum, questo è importante da dire perché non è un referendum abrogativo, è un referendum confermativo, quindi possono andare a votare, l'ho detto anche l'altra volta, il sottoscritto e le due mie graditissime ospiti, essendo in tre, se tutti esprimiamo un voto qualcuno vincerà. Comunque Elisabetta Gualmini, un ultimo appello di un minuto, perché votare sì secondo lei? Bisogna votare sì perché abbiamo bisogno di una maggiore funzionalità delle commissioni e delle nostre assemblee parlamentari, che oggi sono sovrabbondanti, pletoriche e che vanno ridotte nel loro funzionamento. Questa riforma è stata auspicata da tutte le forze politiche dall'inizio degli anni Ottanta, esattamente nella stessa misura, con una riduzione dei parlamentari, ed è giusto introdurre questo piccolo cambiamento per poi poter aprire una breccia verso ulteriori revisioni. Non diamo per l'ennesima volta l'impressione che le istituzioni siano immobili, irriformabili, ferme a 50 anni fa. E Arianna Fure invece perché votare no? Allora, il mio appello è soprattutto nei confronti dei miei coetanei. Siamo noi il futuro del nostro paese, siamo noi che ci ritroveremo a vivere con questo sistema, con il nostro Parlamento, e dobbiamo avere cura del nostro paese. Non possiamo accontentarci, non possiamo soprattutto far passare l'idea di una politica fatta a colpi di populismo. La politica è una cosa seria, bisogna studiare, bisogna capire a fondo in che cosa consiste questa riforma, e se la studiamo capiremo che la proposta che viene portata avanti non risolverebbe assolutamente niente. Cerchiamo di essere seri e di capire che una riforma costituzionale organica e seria è fattibile. Votare no non significa abbandonare il tema, come si è visto anche rispetto al 2016, però votiamo con serietà. Votiamo no perché l'Italia vale molto di più che una lotta a tagli di poltrone. Io vi ringrazio anche per la pacatezza, insomma, la chiarezza del confronto. Grazie a Elisabetta Gualmini, grazie ad Arianna Furi. E quello che dico io è di votare, ecco, di esprimere il vostro voto, anche se ovviamente molti saranno inquietati a dire: ah, ma le file, il rischio Covid. Oggi attendiamo le linee guida del Ministero dell'Interno per capire come verrà fatto tutto in sicurezza. L'importanza del voto comunque non la sto a richiamare io, dal punto di vista della nostra storia e dal punto di vista dell'importanza di esercitare questo diritto. Grazie davvero, voglio andare un attimo in pubblicità e poi arriva a modo suo il signor Bonetti. Uno, nessuno, 100 Milan. Per il taglio dei parlamentari, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Milan, buongiorno. Il taglio dei parlamentari comporterà una ancora maggiore instabilità dei governi. Già oggi questi si reggono su 2, 3, 4, 5 parlamentari, su una manciata talvolta. Se ne riduce il numero, non si farà altro che favorire i cambi di casacca con la volontà popolare che ancora una volta passerà in secondo e in terzo piano. Allora, 9:34 minuti, siamo qui. Io voglio dar conto di questa notizia che mi ha passato il buon Lorenzo Nespoli. L'Agenzia delle Entrate conferma che dal prossimo 15 ottobre finirà la tregua causata dall'emergenza coronavirus tra il fisco e chi non ha pagato le cartelle esattoriali. Per cui ripartono i pignoramenti. E ricorda l'Agenzia delle Entrate, comunque niente paura, che non si può pignorare lavatrici, frigoriferi, letti, tavoli, armadi, stoviglie, abiti, biancheria, animali da compagnia, mentre invece si possono pignorare tutti gli oggetti che hanno un evidente valore artistico o di antiquariato. L'agenzia. È finita la tregua, finalmente è finita la tregua. Abbiamo aspettato mesi e mesi in letargo prima di poter finalmente tornare a godere. Ragionier Crosta. Entreremo nelle vostre case pronti a pignorare tutto: quadri di arte contemporanea, quadri antichi, tessuti, arazzi, tappeti, tutto quello che sarà più utile per noi dell'Agenzia delle Entrate, anche divani di cashmere. Il cashmere. Oh, il cashmere, le vostre copertine di cashmere. Non è vero che non possiamo pignorare i vostri vestiti, controlleremo se i vostri vestiti vi servono veramente oppure no. Quelli che mettete una volta all'anno per andare nei vostri ricevimenti, le vostre pellicce, i vostri colli di pelliccia, di volpe, di ermellino, di canguro. Ma che di canguro? I colli di canguro. Noi verremo nelle vostre case e pignoreremo i vostri abiti di canguro, ma di zebra, le vostre zebra. Giacche di tonno. Pignoreremo anche le vostre giacche di tonno, quelle che usate di tanto in tanto per andare al mare. Dite: ma sì, lo metto una volta tanto. Noi entreremo nei vostri armadi e pignoreremo anche le vostre giacche di tonno. E poi gli scolo insalata centrifuga, gomitole di lana, le pizze surgelate che avete nel congelatore. Noi pignoreremo tutto con le acciughe, i carciofini. Oh, i carciofini buoni. Capito? Terremo tutto dalle vostre il case, perché Crosta, la tregua è finita. La finita. Tregua è finita. Grazie, finalmente grazie. Il ritorno delle cartelle esattoriali esecutive. Sentirete suonare il campanello alle 7 di mattina, penserete: ma chi sarà, un parente, un amico, un fratello? No, siamo noi dell'Agenzia delle Entrate. Il nostro dirigente Crosta. Buongiorno. Pronti a suonare il campanello alle 6:50, a tirarvi giù dal letto e a pignorare le vostre giacche di tonno. Eccolo qua, Leonardo Manera, signori. Buongiorno. E benvenuto. Okay. Ho ascoltato le tue ospiti fino a un attimo fa. Sai che mi hanno convinto tutte e due. Secondo me le tribune non servono a chiarire le idee, servono a confondere, perché adesso mi hanno convinto entrambe. E quindi non sai cosa fare. Vabbè. Dovresti prendere, secondo me, degli ospiti che sono evidentemente squilibrati come capacità E poi dopo il garante ci parli tu col garante? Ma non è il garante, non è al garante, basta che ci parli tu con la Scaglioni, sì. Poi Alessandra parlo Scaglioni. Io con la Scaglioni. Devi prendere qualcuno per il sì o per il no, ma devi prendere uno bravo e uno scarso secondo le tue idee, cioè tu saprai già per chi votare, tu scegli quello bravo che va nella tua direzione, sì. Quello scarso invece che non convince. Va bene la prossima volta così faremo non così. Perché hai confuso le idee in nome della credibilità dell'informazione. Allora Leonardo, io saluto e voglio entrare in questo argomento. Ieri mi ha colpito questa notizia. Io dico sempre che non si fanno i processi in radio e non lo facciamo neanche stavolta. Un anno fa un cittadino originario del Bangladesh ha aggredito a Milano con cocci di bottiglia una donna senza motivo nel largo La Foppa. Il rischio era anche che finisse malissimo, ecco, con un omicidio. Non c'è paragoni, non ci sono paragoni, ma come dire, sapete quello che è successo ieri a Como con un sacerdote. Saluto Andrea Aloi, che è l'avvocato del cittadino bengalese. Buongiorno avvocato, grazie di essere qui. Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Perché in questo momento il suo assistito, di fatto dopo un anno da questo fatto, allora è stato giudicato incapace di intendere di volere, quindi non imputabile, non processabile. E poi adesso è stato lasciato dopo un anno libero, cioè lei ci conferma è totalmente libero senza nessun vincolo? Beh, non è ancora libero. Il giudice però ha rigettato la misura di sicurezza richiesta dalla procura. La procura aveva chiesto ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario tramite sì. REMS, e la misura non è stata accolta dal giudice. Quindi è questione di tempo, insomma, burocratico, e verrà di fatto liberato. Sì, nei suoi confronti però pende un decreto di espulsione. Quindi certo. L'esito sarà verosimilmente quella di una sua espulsione dal territorio nazionale, ecco. Ovviamente lei ha fatto il suo lavoro, però la gente che legge questa notizia è rimasta un po' colpita. Dice, ma come? Dopo un anno con una perizia psichiatrica lei insomma ha dimostrato che era stato un momento di crisi psichiatrica breve e finita di fatto? Sì, io capisco i timori anche degli ascoltatori, dell'opinione pubblica, però in realtà questa è stata una decisione secondo diritto e anche secondo scienza, perché siamo stati veramente rigorosi dal punto di vista scientifico, abbiamo prodotto studi, lei adesso poi mi intervista in qualità di avvocato, ma io sono anche un medico e quindi col consulente tecnico abbiamo lavorato molto su questo punto. E se mi consente spiego anche il perché non è stata applicata la misura di sicurezza. Sì. La procura ha chiesto una misura di sicurezza, quella del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, che richiede due condizioni affinché possa essere applicata, che è l'infermità di mente da un lato e la pericolosità sociale dall'altro. Problemi ci sono e c'erano in relazione ad entrambe queste condizioni. Con riferimento all'infermità di mente, una sentenza del 1982 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo che prevede questa misura di sicurezza nella parte in cui non prevede che il giudice accerti la sussistenza dell'infermità di mente non soltanto al momento del fatto, cioè quando ha commesso il fatto di reato, ma anche al momento di applicazione della misura, quindi al momento della sentenza. Sì. E qui sorge il primo grande problema, perché la diagnosi condivisa sia dal perito nominato dal giudice sia dal nostro consulente tecnico è stata quella di un disturbo psicotico breve. Che per definizione, secondo DSM-5, che è la Bibbia della psichiatria, è un disturbo, un'alterazione psichica temporanea, cioè che va da un minimo di un giorno a massimo 30 ma giorni. Esattamente ci può spiegare la motivazione che ha dato per questo gesto? Cioè quale sarebbe stata questa... Dice il mio assistito, quindi. Sì, certo. Nessuna motivazione. Guardi che già dall'inizio era apparso anche agli stessi testimoni oculari che qualcosa non funzionasse, il mio assistito appariva confuso, sembrava, loro stessi scrivono, dicono, riferiscono che sembrava non essersi reso conto di quello che aveva fatto, anche in sede di interrogatorio davanti a me, davanti al giudice. Queste cose inquietano un pochino, cioè perché non possiamo pensare che non gli possa ricapitare? Certo, lei dice adesso sarà espulso, va bene, ma sappiamo che ci sono anche molti cittadini che hanno un decreto di espulsione nelle tasche e sono qui In sì, nel suo caso forse sarà un po' diverso, perché la questura di Napoli si è dimostrata molto sollecita, ecco, nei suoi confronti. Sì. Però rispondo alla domanda in due modi, ecco. Innanzitutto voglio un attimo ripercorrere quella che è stata la storia di questa persona, perché deve far riflettere, ovvero questo non è un disperato che è venuto qui e basta. Questa era una persona che stava relativamente bene al suo paese, aveva una piccola attività commerciale, un negozio di vestiti, aveva una famiglia unita che gli voleva bene, una madre, due fratelli, due sorelle, frequentava l'università, studiava peraltro proprio per diventare avvocato. Sì. Insomma, era una persona che aveva una sua vita al suo paese. A un certo punto le cose sono cominciate ad andare male e qualcuno si è fatto avanti prospettandogli una sorta di paradiso in terra qui in Italia. Mm. Ha pagato 15.000 euro per venire in Italia. Sì. Ha pagato 7.000 euro per il permesso di soggiorno. Una volta che è arrivato qui gli è stato tolto il passaporto ed è stato messo a lavorare 12 ore al giorno in una fabbrica tessile nel napoletano. Vabbè, diciamo, senza la possibilità di avere... ma capisco, quindi una, no, una, per una vita... per 7 anni lui ha condotto questa vita qui, per 7 anni. Io sinceramente siamo sicuri che anche noi in queste condizioni a un certo punto non saremmo usciti di testa, magari con questa gravità. Va bene, ma io magari... no, ma è chiaro, mi sto dicendo, gli ho chiesto un'altra cosa, cioè perché una volta uscito siamo sicuri che non possa ricapitare questo, ma a tutela della comunità, credo che sia. Sì, anche... allora la sicurezza non c'è e c'è una probabilità. Abbiamo esaminato questa probabilità e insomma il risultato è che è una probabilità o nulla o molto bassa. Io le posso dare anche dei dati, ovvero nel 10-50% dei casi questi disturbi rimangono l'unico episodio nella vita di un uomo. C'è una probabilità, 10-50% dei casi, dal 10-50% dei casi, c'è una probabilità di ricaduta che va dal 30-50% dei casi. Che non è pochissimo. Che non è pochissimo, però cioè, per orientarci... uno su 3 o uno su 2. Sì, però per orientarci in questo caso specifico siamo andati a esaminare quali erano i fattori di prognosi favorevole, ovvero quei fattori che potessero insomma a considerare una probabilità nulla o bassa, ed erano tutti soddisfatti nel suo caso, ad esempio l'età di esordio di questo disturbo. Mm-hmm. oltre 15 anni è sicuramente un fattore di prognosi favorevole, la tempestività con cui fu instaurata la terapia neurolettica, lui già il giorno dopo era sotto terapia neurolettica, l'assunzione della terapia ed è un'assunzione costante, così come anche c'è stata una lunga osservazione, perché lui per un anno, più di un anno è stato in carcere comunque, prima con una misura cautelare, poi con una misura di sicurezza applicata in via provvisoria. Perché molti ascoltatori ovviamente può immaginare, si sentono anche un po' indignati, quello che ci sta dicendo l'avvocato non è la posizione dell'avvocato, ma che è stata firmata e controfirmata e accettata da un giudice, cioè quindi questo un giudice ancora ha valutato non lo possiamo ancora sapere, ci tengo a sottolineare questo, perché potremo sapere qual è stato l'iter logico del giudice soltanto con la pubblicazione delle motivazioni. No, certo, le motivazioni non sono ancora, però la sentenza c'è stata, la decisione del giudice c'è stata, cioè sono state rigettate le richieste della procura di tenerlo per 2 anni, credo, in una situazione di controllo. Poi vedremo le motivazioni del giudice, però voi come parte in causa avete convinto il giudice, vedremo come nelle motivazioni. Avvocato, io la devo ringraziare perché ne è andata al traffico. Non so, Leonardo, tu hai ascoltato, ovviamente gli ascoltatori sono molto, alcuni allibiti a dire ma com'è possibile di avere questa certezza che non riaccadrà. Però dobbiamo ragionare in punto di diritto. Come si dice sempre, aspetteremo le motivazioni della sentenza. Aspetteremo questo le motivazioni. Sempre, sì, sempre. Si dice sempre. Però sempre tanto, così, aspetteremo intanto, le motivazioni. Abbiamo fiducia nella giustizia, aspetteremo le motivazioni della sentenza. Va bene, io. Due frasi. Di rito. Ringraziamo l'avvocato, ripeto, Andrea Loi, che è l'avvocato difensore di questo cittadino originario del Bangladesh che aveva aggredito un anno fa circa, senza alcun motivo, in largo La Foppa a Milano, una donna con cocci di bottiglia. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 1 nessuno 100 Milan. Allora, 9 e 48 minuti. Caro Leonardo, sappi che hanno trovato a Foggia. È bello che tu me lo dicesti. Hanno trovato a Foggia alcuni percettori del reddito di cittadinanza, 30 di loro detenuti, tra questi anche mafiosi. Qui io. Da resto, se sono in carcere è difficile che lavorino normalmente. Sì, esatto. Quindi secondo me è giusto che ce l'abbiano. Detenuti per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione. E prendevano anche il reddito di cittadinanza. Qui deve partire, non so, il nostro Alpino. Sarei curioso di sapere se hanno fatto il colloquio con i navigator. Avete la faccia come il culo. Effettivamente, pronto? Se la chiamo per il colloquio. Quando si presenta, quando mi danno il permesso. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Questa era mitica questa. Siamo al grande revival qui, sì. Di quando ancora ti alzavi ad orari più consoni. Eccolo ti là, sei impigrito. Ovvio. Hai voluto cambiare orario con gran dispiacere per anni degli ascoltatori che ti hanno rinfacciato questa cosa, ma sappiate che l'ha fatto solo perché è una persona pigra. Sì, non, sì, non sono voleva più alzare. Un po' un lentopede, mi sono riciclato nella rivendita di scarpe e così. Insomma. Vabbè, prego Leonardo, vai. Allora, dunque, è finita la latitanza di Giuseppe Andrea Mastini, soprannominato Johnny lo Zingaro, che è stato arrestato in un casolare in provincia di Sassari. Già in passato era evaso, ma a suo dire stavolta si è trattato di una fuga d'amore. Qualche volta capita di chiedere a qualcuno: tu che pazzia hai fatto per amore? Ed effettivamente sentirsi dire sono evaso non è una risposta usuale. E se da un lato possiamo essere soddisfatti perché le forze dell'ordine hanno rintracciato un uomo con numerosi reati, anche gravi, alle spalle, dall'altro fa un certo effetto sentire che una persona che certo non è un neofita della vita può per amore arrivare fino all'evasione, peggiorando sicuramente la sua posizione giudiziaria. Però è la dimostrazione che, malvivente o no, con precedenti penali alle spalle oppure incensurato, l'amore, quando c'è, resta pur sempre quella cosa lì, quella che dall'adolescenza in avanti e per tutta la vita ti fa torcere le budella, ti fa immaginare quando c'è che insieme a quella persona potresti essere qualcosa in più, qualcosa di diverso, ti fa diventare geloso e malinconico se lei sorride a un altro, anche solo per educazione. Ti fa venir voglia di dimenticarla per quanto ti fa soffrire, ti fa venir voglia di tornare a vivere come prima di conoscerla, ma poi all'idea di vivere come prima di conoscerla senti un vuoto che sembra incolmabile. L'amore, quando c'è, causa nell'organismo la produzione di dopamina, perciò in qualche modo si diventa drogati d'amore, diventiamo dopainomani per amore. E poi quando per un motivo qualsiasi quell'amore finisce, spesso si cerca di compensare con qualche altra persona che rischia di diventare il metadone sentimentale. Quanti di noi sono stati metadone sentimentale? A quanti di noi sarebbe stato giusto, corretto, dire tu sei il mio metadone, invece di essere chiamati con un generico amore che però non corrispondeva a verità? Sentirsi dire amore da una persona che non è innamorata di te è come sentirsi dire ciao caro dal barista. Finisce lì, si dimentica prima che arrivi il prossimo caffè. Non si ricorda tutto delle storie d'amore, a volte solo piccoli particolari, una passeggiata in mezzo alla nebbia oppure sulla spiaggia, una conchiglia raccolta insieme che si conserva in qualche cassetto, ma anche una indigestione, una litigata, una lacrima scesa in un momento imprevisto. E poi spesso quel silenzio che si prova dopo aver fatto l'amore, che può essere di vario tipo, il silenzio silenzioso se non c'è molto da dirsi, il silenzio che precede il pisolino post coitum se la coppia è insieme da molti anni, e il silenzio più bello, quello rumoroso, che si riempie di suoni mentre il corpo diventa una fabbrica di dopamina e ossitocina. Siamo ancora qui tutti ad aspettare quella dopamina, il miglior tipo di droga che tra l'altro è legale e non porta dritta in carcere, ma al massimo può indurti a cercare di scappare dal carcere per un giorno, due, tre, tanto si sa che poi ti riprendono. Ma si sa che qualche volta la droga non fa più ragionare. È successo anche noi dopainomani qualche volta. Anche a noi metadone sentimentale, è successo anche a noi qualche volta, è successo in questi giorni anche a Johnny lo Zingaro. Johnny lo Zingaro! Elisabetta Fosconi da quattro giorni non parlava d'altro, insomma c'è questo fascino per il male. Sì, è vero, è catturato perché ha cercato di contattare una donna, l'amore, sempre così, è l'amore. La moglie a quanto pare, sì, no, è l'amore, pare che sia l'amore. Proprio la moglie. È così. Tra l'altro è stato beccato in un casolare vicino al carcere, quindi praticamente non si è mai mosso da lì. Ma perché sapeva che la fuga sarebbe durata poco, allora beh, sto vicino più almeno. Non ha un viaggio lungo da fare. Oh, va bene, cari ascoltatori, nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan torneremo sul tema di Matera. Avremo ospite il procuratore capo di Matera per quella vicenda terribile di uno stupro di gruppo di due ragazzine. E poi parleremo di altri temi. Parleremo anche un pochino del Covid con una storia. Guarda, una storia. Come mai? Strano. Si parla di Covid, no, guarda che stupisce questa cosa. Questa roba è effettivamente incredibile. Chiunque guardi un paio di giornali stranieri, internazionali, così si rende conto di come la vicenda Covid in tutti gli altri paesi, dove tra l'altro hanno un numero di contagiati molto più alti del nostro, è a pagina 10, 15 e nelle prime pagine si parla, non so, adesso c'è stata questa importante pace, diciamo così, firmata da Trump con alcuni paesi arabi, storici trattati, scenari internazionali economici. E invece noi le prime 10 pagine sulla mascherina sì o no a scuola. È così, è un po' deprimente. Ci guardiamo un po' l'ombelico. Tu ti guardi l'ombelico? È un negazionista? No, ancora. Sì, Alessandro Milan è il negazionista, che deve polemizzare anche sugli articoli di giornale. Comunque, Elisabetta Fosconi, che sa tutto di Johnny lo Zingaro, non è la moglie, ma la compagna di figlia di Giostrai, che sta in Toscana in un campo rom. Quindi tutto questo per la precisione. Non è proprio la moglie, sa tutto, la biografia di Johnny lo Zingaro. More uxorio, diciamo, dai. More va bene uxorio. Così, con questa parola latina, questo termine latino che dà anche segnale di cultura. More uxorio. Ecco, anche oggi la sua cultura è stata distillata. Vai, giornale. E vedete che Schillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro! Gol di Schillacci ancora! Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma voglio dire, Milan, ma anche questi studenti come sono messi? Una volta che sanno che questa norma di tenere la mascherina al banco non esiste, quando si siedono si tolgano tutti la mascherina e sciopero! Milan, buongiorno, ma le norme o tutte le precauzioni vengono prese contro il Covid, non contro lo Stato o contro i cittadini? Se qualcuno adotta una precauzione in più, perché no? Ecco, è questo. Se uno adotta una precauzione in più, perché no? A me questa cosa fa impazzire. Perché non è necessaria, non è prescritta da nessuno e comporta per i ragazzi stare 6 ore con la mascherina e dicono è terribile. Cioè, se non è una prescrizione, perché è questa la cosa che mi fa impazzire? L'italiano fa un po' di più, o meglio, in questo caso la scuola fa di più. Solo per tutelarsi, perché so già, mi sono arrivate voci di papà avvocati o mamme avvocati che scrivono alle scuole dicendo vi diffido e vi, come dire, vi chiedo di far rispettare la distanza di un bel, che sono pronti già lì, caro Leonardo, con le cause. E allora le scuole, per tutelarsi, fanno prescrizioni in più. È l'Italia del iperburocratismo, che secondo me non porta nulla di buono. Comunque io durante la pubblicità pensavo, sì, che più che votare al referendum domenica vorrei votare alle elezioni in Asarco. No dai, basta, sì, questa cosa, sì, che già, sì, ieri, perché sento sempre la pubblicità delle liste. Io non mi interessa votare, voglio andare alle elezioni in Asarco, quindi chiedo a qualcuno se può procurarmi e può dirmi in che modo posso fare, sì, per votare una delle, per adesso ne ho sentite tre delle liste in Asarco. Sentiamo Marianna che ci chiama da Roma. Marianna, buongiorno Marianna, medico. Sì, medico appartengo alla categoria che porta anche per 12 ore più la mascherina e sono sopravvissuta. Sì. E mi scusi la polemica, Alessandro, che ovviamente non è contro di lei, ma contro un qualcosa che va anche interpretato, come tutte le norme di legge. Io le volevo soltanto fare presente questa situazione. Dopo vari ripensamenti sul DCPM, perché si era parlato del metro dinamico, ora è diventato il metro statico, quindi distanza dalla distanza buccale di un metro. Beh? Sì. Non la mascherina, ok, però riflettiamo su una cosa. È tutto vero quello che le ha detto, premettendo questo dal punto di vista legale è verissimo. Che poi non lo lei. Dico io, lo dicono le indicazioni del ministero, dal ministro Azzolina, cioè no, io non lo so, l'hanno detto loro, insomma, che bisogna fare così. Il DCPM, per come l'ho letto io, interpretato personalmente, lascia molto liberi, non parla di obbligo, non parla di non obbligo. Io ho la sensazione che lasci molto liberi. Le faccio una riflessione da medico, proprio, guardi, da persona che vede tutti i giorni. Allora, noi abbiamo dei ragazzi che stanno in classe, la distanza buccale un metro vuol dire che se abbassano la testa diventa 70 centimetri, se uno vuole fare l'ingegnere, sì, non è medico. Sì. Se io starnutisco, e lei sa benissimo che in una classe... ci sarà, mi coprirò la bocca, mi coprirò la bocca, metterò la mascherina. È già una criticità, nel senso, analizziamole volta, capito, per volta, guarda. Questa è già una criticità, non tutti lo faranno. Quindi già la mascherina evita che il droplet viaggi all'interno della classe, di fronte o dietro, punto primo. Sì. Punto secondo, noi abbiamo fatto molta polemica sul fatto che quest'estate i ragazzi sono stati liberi di andare in giro, ma avevamo dei contagi giornalieri molto bassi, mi spiego meglio. In una città come Roma, i contagi nella mia ASL, che è Roma 2, sono 50 al giorno. In una regione come la Puglia sono 80. Sì. Questo vuol dire che la probabilità di trovare un ragazzo positivo in una classe è più alta lì dove c'è densità abitativa e di contagio maggiore. Va bene, quindi... Marianna, ma tutto questo per dire, lei dice, sarebbe opportuno portarle anche al banco, no? Riassumo così correttamente, cioè lei dice sarebbe opportuno portarle sempre? Secondo me sì. Secondo allora, lei, sempre, però scusi, allora, ci saranno sempre, stati sempre... decine di medici, professori che si sono riuniti, hanno fatto delle linee guida e hanno detto che non vanno portate là dove le c'è la distanza. Sono, guardi, noi chi dobbiamo, se chi cioè voglio dire, e io scusi, ho fatto la riunione il primo giorno, prima dell'inizio della scuola, e i responsabili della scuola e mio figlio hanno detto, quando saranno seduti, siccome c'è un metro, non dovranno portare la mascherina. Cioè, come previsto dal ministero, perché allora, io o lei, Marianna, dobbiamo cambiare quello che ha previsto il ministero? Perché io, dall'interpretazione che ho fatto della normativa, non c'è il divieto a non portarla. E guardi, il DCPM non è lì. Non è DCPM è lì. Questo è un paese in cui si interpretano anche le norme. No, il DCPM è lì, guardi, il DCPM è lì. Immagino che anche lei l'abbia letto. Non è il divieto esatto, di portarle. Cioè, c'è scritto, e le indicazioni sono mascherina sempre quando ci si sposta e quando si è al banco si può togliere. Poi se uno, esatto, in libertà. Perfetto, ma io le sto dicendo che in alcune scuole obbligano i ragazzi, obbligano a tenerle. Se uno la vuol tenere, okay, in libertà, la tenga. Ha letto quella parte del DCPM che dice che le norme vanno interpretate in base all'epidemiologia? Perché a me questa cosa mi ha proprio colpita. E allora così però, Marianna, scusi, però ieri la regione Lombardia, per esempio, se non ho capito male, sì, ha proprio dato un'interpretazione chiara, ha detto che non è richiesto l'uso delle mascherine quando c'è il metro solo, di distanza. Leonardo, c'è proprio un'interpretazione della... parlarne. Ha significato parlarne, perché ci sono scuole che invece obbligano a tenere la mascherina, e tra l'altro queste scuole dicono perché c'è una delibera della Regione Lombardia che lo prevede. La Regione Lombardia mi ha scritto, hanno scritto, hanno fatto comunicati dicendo: non dite fesserie, nessuna nostra delibera prevede questo, anzi la nostra delibera prevede che una volta seduti c'è la possibilità o la libertà di togliersi le mascherine. Quindi non appellatevi a una delibera che non dice questo per imporre un obbligo che nessuno, dal ministro alla salute in giù, ha mai richiesto. Quindi questo è. Poi se uno lo vuol fare per tutelarsi, io dico per tutelarsi da cause, e lo faccia, che, cioè lo faccia, a me sta sulle balle perché poi ci vanno di mezzo i figli. Comunque Marianna, la ringrazio per questo intervento, torneremo su questa cosa, però Leonardo, abbiamo ricevuto una raccomandata, ricevuta di ritorno. Te, che non la leggi perché sei a casa, ma è arrivata anche a te, non l'ho aperta ma immagino sia la stessa perché è arrivata anche a me, dal signor Rocco che ci aveva chiamato ascoltatore. È quell'ascoltatore che porta mezzi, credo soprattutto trattori, in Sicilia, quindi prendendo, stavo dicendo passando sul ponte sullo stretto, passando in nave, e che paga, ti ricordi quanto? 40.000 euro circa. 1.000 euro l'anno, sì. Allora noi non ci credevamo e lui ci ha mandato le fatture, eccole qua. Rocco? Rocco? Salve. C'ho le fatture, me le hai mandate, sì. È tutte, guarda, le ho mandate. 37.000 euro in un mese alla Caronte, 40.000 euro. Sì, al mese, sì. Non ricordavo se era al mese o all'anno. 39.000, no, al mese, ogni quanto, Rocco? Mese, al mese. Al mese. Mamma mia. Siccome vi ho sentito un po' scettici. Anche, no, è vero. Eravamo perplessi anche, soprattutto. Perplessi, ma anche Leonardo diceva, no, sono 4.000 al mese, no? Anche meno, neanche adesso. Guarda, con le fatture ci credo, per la verità, potrebbe averle clonate, copiate. Ma Leonardo, sì, è così. Certo. Ma come, ma io mi chiedo, cioè con tutti questi, con, cioè solo 40.000 euro per trasportare, sì, cioè evidentemente sono 7 passaggi al giorno. Trasportate merci che poi hanno un grande valore, perché ci dovrà essere un guadagno, se no uno perché lo fa, voglio dire, per certo, pagare la Caronte, no, non credo. Noi facciamo trasporti per conto di un corriere nazionale ed internazionale, quindi trasportiamo cose da nord a sud e da sud a nord. Certo. Sì, ma Alessandro Milan vuole sapere che tipo di cose sono, perché è invidioso dei, sì, guadagni. Allora vuole sapere qual è la merce che viene trasportata. Ce l'ha già detto, sì. Grandi mezzi, allora, trattori, credo. Guarda, quando noi facciamo, noi abbiamo la licenza per trasporto conto terzi. Il corriere, in realtà, noi facciamo da trasportatori, ma non sappiamo che cosa portiamo. Non si sa, è regolato dalla legge. Ah, ecco. Tutte cose legali, però. Mi è mai capitato, sappiamo, di avere dei controlli e poi dei problemi penali, per esempio, dopo qualche controllo? No. Senza nessun problema. Sono trasporti conto terzi, funziona così. Comunque, io ti ringrazio, Rocco. Insomma, la ringraziamo perché ci ha spedito tutte le fatture. Adesso Manera le studio. Io, appena visto la raccomandata, ho detto: ecco, l'ennesima querela. Però poi è arrivata anche a Manera. Dico: invece no, è stata una grande sorpresa di un ascoltatore che ci ha dimostrato, carte alla mano, che quello che ha detto, come dicono sempre i nostri ascoltatori, è verità. Capito, Leonardo? Andrebbe verificato in modo un po' più approfondito. Comunque, no, diciamo, bisogna, sì, verificare se le ha pagate queste fatture. Scherzo. So che ha delle pendenze con l'agenzia delle smettila, entrate. Smettila. Delle grosse pendenze. Grande Rocco, stamattina sono arrivato, ho ricevuto sta raccomandata anche tu, e ho detto: ma guarda te, grande, il grande Rocco che si è preso la briga di dimostrare carte alla mano che quello che ci ha detto era vero. Paga dalle 30 alle 40 mila euro la sua società per trasportare merci da Reggio Calabria a Messina, capisci? Dai, andiamo al traffico. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Allora, caro Leonardo Manera, eccoci qui, sono le 10:19 minuti. Sì, io voglio tornare sulla questione dello stupro di due ragazzine, terribile, di cui abbiamo parlato anche ieri con il sindaco di Pisticci. e siamo molto grati e lo ringraziamo per essere qua, il procuratore di Matera, Piero Argentino. Dottor Argentino, grazie di essere qui in diretta su Radio 24. Grazie a voi. Ovviamente non entreremo nel merito delle indagini, però qualche cosa ci può dire del contesto di quello che sta succedendo. Sa cosa? A me ha molto colpito quando lei alla fine della prima conferenza stampa ha definito queste due vittime due bambine. Perché ha utilizzato, ci ha tenuto a sottolineare perché questo? Perché sono due quindicenni, mm-hmm. e non voglio dire, sono nella fase dell'adolescenza, quindi io di solito le persone a quell'età le chiamo bambine, come chiamavo bambina, definivo bambina anche Sara Scazzi quando ho istruito quel processo, mm-hmm. e per me, per quell'età, insomma, l'età dell'adolescenza. No, ma io ci ho trovato molta tenerezza e molta tentativo di protezione. Guardi, io ho una figlia di 14 anni, quindi posso capire perfettamente, insomma, e dà il senso ancora di più della brutalità del reato che viene contestato alle persone che sono state fermate e arrestate. O no, procuratore? Voglio dire, io cerco di non formulare. Sappiamo tutti che il nostro ordinamento costituzionale tende un po' alla rieducazione anche dell'indagato o di quello che potrebbe essere il futuro imputato. Io spero che questi ragazzi possano ravvedersi, possano capire l'errore del gesto che hanno commesso e quindi possano domani diventare. E che è un qualcosa, credo, che anche nell'intervista al Corriere della Sera lo stesso padre di una di queste due ragazze ha detto, che è un gesto di grande forza, cioè spero che capiscano per il futuro. Certo, per il momento devono... Sono giovani, 19 anni, 20 anni, 21, 22 anni, sono giovanissimi. Uno non può non augurarsi che magari possano domani capire l'errore. Però sono in un'età in cui sono pienamente consapevoli. Certamente. Sono in un'età in cui sono veramente consapevoli, ma io parlo degli sviluppi futuri con riferimento alla loro personalità. Certo. Leggo dai giornali che non si sono avvalsi della facoltà. A prescindere dalla considerazione che nel nostro ordinamento va sempre ricordato che vi è la presunzione di innocenza. Certo, la sentenza definitiva. Questo sì. So che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, che è un loro diritto. Ci spiega tecnicamente questo? In sede di interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Non è escluso che un domani possano eventualmente chiedere un interrogatorio al pubblico ministero. Mm. Quello era un interrogatorio di garanzia. E si sono avvalse della facoltà di non rispondere. In precedenza uno dei quattro aveva reso interrogatorio al pubblico ministero dopo aver reso alla PG spontanee dichiarazioni, e ovviamente quell'interrogatorio serve per futuri sviluppi processuali. Certo, sì, è un loro diritto. Tecnicamente può spiegare agli ascoltatori, magari che non sono avvezzi, se incide, diciamo, nell'ambito dell'inchiesta e la facoltà di non rispondere? No, assolutamente no. Quello è un interrogatorio di garanzia, nel senso che loro potevano discolparsi davanti al CIP, certo. Hanno ritenuto di non farlo, è una scelta difensiva legittima. Non può avere nessun pregiudizio sullo sviluppo dell'indagine. Questo sì. Il pubblico ministero è una scelta che molti fanno, molti imputati decidono di avvalersi di questa facoltà. È una forma di strategia difensiva. Molte volte lei pensi ai maxi processi, migliaia e migliaia di pagine processuali. Un avvocato non ha il tempo necessario per studiarsi tutti gli atti, allora scelgono di mantenere il silenzio. Certo. Davanti. Ecco, lei ha parlato, appunto, ha citato Sara Scazzi, il delitto di Avetrana. Questa però è una situazione che le è mai capitata, questo procuratore, nella sua storia? Cioè di mi sono capitati quando ero a Taranto altri casi di violenza sessuale, ma violenza sessuale di gruppo no. Di gruppo, esatto. Cioè, perché la modalità contestata sarebbe quella di, se ho capito bene, anche forse di aver messo della droga in un cocktail. No, questo no. Ancora no, non c'è. Gli addebiti sono soltanto due. Sì. Violenza sessuale di gruppo e lesioni al fine di commettere il reato più grave. Adesso gli addebiti sono due. Ovviamente c'è anche questo discorso. C'è adesso una fase, siamo nella fase di un po' di completamento delle indagini, speriamo di poterle fare nel modo più tempestivo possibile, e anche però quel fatto è oggetto di valutazione, perché anche quel fatto, se dimostrato, potrebbe integrare gli estremi di un episodio. Se l'episodio venisse confermato, gli imputati che pena, quanti anni di detenzione possono rischiare? Beh, possono rischiare da un minimo di 4 anni a un massimo di 20 anni, perché tutto dipende. In questi casi penso che la diminuente della modica lieve entità del fatto potrebbe essere riconosciuta. Procuratore, ultime due cose. So che ci sono in questo momento 4 persone coinvolte, però lei ha detto che non è escluso che si possa allargare in qualche modo, cioè che il gruppo non ritengo che il gruppo fosse più ampio, perché i fotogrammi ci hanno fatto vedere che soltanto 8 persone erano coinvolte. 8 i fotogrammi. Le ragazze in sede di dicono, parlano di un numero non inferiore a 5, non superiore a 10, e penso che possiamo benissimo fermarci a 8. Sì. L'ultima questione è se si può immaginare queste due ragazze, che adesso torneranno anche a un certo punto in Inghilterra, dove sta il padre, cioè, avranno per sempre questo indelebile segno? Io spero di no. Io spero di no, e auguro alle due ragazze di no. Certo, il sabato mi pare che il GIP ha già fissato per sabato l'incidente probatorio. Dopo l'incidente probatorio possono raggiungere le loro abitazioni, e spero che questo fatto non possa avere alcuna conseguenza sullo sviluppo fisico e psichico delle due ragazze. E ce lo auguriamo tutti, anche se poi ci sarà un eventuale processo, e quindi potrebbero anche dover, come dire, tornare, no? Se si fa l'incidente probatorio, serve proprio a non far tornare le vittime, le persone offese, salvo che non decidano di costituirsi parte civile e non vogliono presenziare fisicamente al processo. Vedremo poi. Io vorrei chiedere al procuratore, è da tanti anni che fa questo lavoro, si è abituato a questo tipo di cose o ancora oggi in qualche modo le fanno effetto? Guardi, io la mia carriera si è sviluppata tra Lecce e Taranto. A Taranto sono stato 30 anni, 23 anni come pubblico ministero, prima come sostituto e poi come procuratore aggiunto. Tenga conto che ho istruito parecchi processi di mafia. Quando a Taranto c'erano 90-100 omicidi l'anno, sono stato destinatario anche di provvedimenti di protezione da parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Io per 6 anni ho avuto la scorta proprio per il mio lavoro in questi processi, sono abituato, io non dico questo, io dico che ho affrontato molti fatti, però di altra matrice rispetto a questo, di altra matrice. Certamente. Questo sì. Procuratore, noi la ringraziamo, procuratore di Matera, Piero Argentino, vedremo insomma questa vicenda, poi si perderà, Leonardo, un po' ovviamente nella cronaca, cioè, è un po' terribile, c'è una grande attenzione, poi sarà molto da cronaca allo sempre più locale, i giornali locali, i grandi giornali si occuperanno sempre meno, però è una cosa che ha molto, molto colpito. Vorrei anch'io condividere l'ottimismo del procuratore quando dice: spero che queste due ragazze non portino queste cicatrici per sempre. Temo che sia un po' difficile, o comunque temo che si possa arrivare solo dopo un lungo lavoro, anche psicologico, immagino, perché una cosa del genere segna inevitabilmente. Comunque, guarda che oggi non si è manifestato quell'osco figuro che risponde a un nome che ben sai. Sta arrivando l'entopede. Avrà degli affari da sistemare. Sì, gli ultimi. L'ho visto l'altro giorno, quando sono venuto in radio, l'ho visto che stavo provando un tiro a pugni. Ma addirittura, ma su che cosa o su chi? Ah, ho visto che c'è un paio di tecnici della radio che si girano con degli occhi neri e degli occhi io non pesti. L'ho visto utilizzarlo su nessuno, ma Mauro, ho visto che lo stava calzando. È arrivato, stavi provando un tirapugni, ha detto Manera l'altro giorno che ti ha visto in radio. Ma contro che cosa è successo? Cioè, chi devi... Ma sarà stato qualche, ma non è che qualche devi... credito che doveva riscuotere. Ma scusa Leonardo, che... ma... Sì. Ecco, ci fa sapere che la calunnia è un reato grave, ma infatti se l'Alpino ci vuole calunniare perché abbiamo detto qualcosa contro di lui, faccia pure, per il resto siamo in una botte di ferro. No, non è che Leonardo aspettava te proprio, perché ci hai detto che ti aveva fatto una dilazione del prestito, ma poi magari ha cambiato idea. Sì, per quello che non sono venuto in questi giorni, temo per la mia incolumità, perché l'ho visto col tirapugno. Allora, se interessa così. Mauro Meazza, venerdì. Dovrebbe a questo punto tornare qui fisicamente Leonardo Manera venerdì, giusto? Ma sì, credo di sì, adesso vedo se riesco un po' a dilazionare senza danni da qui a venerdì, provo ti a parlare con Mauro Meazza. Spiego due passaggi segreti per arrivare in studio direttamente senza incrociarlo, dopo ci... No, mi presento con una guardia del corpo, ecco. Vabbè, farò così. Dai, alla borsa! Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Ma non è vero che le dittature funzionano meglio delle democrazie? Forse può sembrare che nell'immediato funzioni, ma nel tempo le dittature falliscono, la qualità della vita decade e diventa tutto uno schifo. Io ti ho lasciato un biglietto al Bargimi, l'hai letto? E nel contempo ti ho offerto il caffè, perché mi ha detto Jimmy che tu il cappuccio non lo bevi, quindi caffè brioche. Sei passato sì o no? Non lo so, aspetta un attimo Alpino, ce ne sono altri due, ma qua c'è una cosa subito da chiarire. Leonardo, chi è? Sì, anzi ringrazio, ho trovato il biglietto, mi sembra di Alex, che mi ha lasciato il biglietto, l'ho ricevuto e ho anche usufruito del prima, caffè. Però. Però non è che devi ringraziare solo del caffè. Se uno ti invita a farlo, cioè sei sgradevole, cioè, potevi esordire oggi ringraziando Alex. Ma è una cosa che risale ormai a qualche giorno fa, tra l'altro. Appunto. Però io lo inviterei a rifarlo. Cioè, se ricapiti al Bar Jimmy, lascia sempre caffè e brioche pagata. Che e poi io ne lascio mezza disponibile, quindi è un circolo virtuoso che si innesca. Quindi grazie Alex, rifallo. Rifallo ancora più e più volte. Per sempre Alex, farlo per sempre. Milan, va bene Covid, va bene scuole, va bene tutto quello che vuoi. Ma non mi parli più del grande Milan? Vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco. Io voglio partecipare alle elezioni e Nasarco, per favore, fatemi partecipare. Mi sono affezionato alle liste. Tutte, ovviamente, tutte per par condicio. Ne sceglierò una in base alla pubblicità migliore. Io mi faccio condizionare molto dalle pubblicità, sono quello che subisce i media e vado nella direzione così che mi propongono. Com'è quell'ultimo WhatsApp che ci è arrivato? Com'è? Vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco. Vabbè. Come facciamo a interrompere De André? Dalla mitraglia tocca. Allora, le 10:38 minuti. Adesso, a proposito di Covid, oggi abbiamo parlato poco di Covid, coronavirus, eccetera, no? Un pochino, le scuole, eccetera. Però c'è un nostro amico, soprattutto di Leonardo Manera, lo conosce meglio, ma lo conosco anch'io, il mitico Teo Guadalupi. Teo, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Che ci racconta così, come possiamo dire, una vicenda kafkiana. Che ti è successo? Che ti sta succedendo? Allora, mi è successo questo, che praticamente la mia attuale compagna con i suoi figli sono stati in Grecia. E giustamente al ritorno dalla Grecia hanno fatto il tampone. Il risultato negativo sia per la mia compagna che per il figlio più grande, mentre la bambina più piccola, che ha 10 anni, dopo un paio di giorni, cioè prima è arrivato il referto negativo, il suo non era arrivato immediatamente, dopo un paio di giorni è arrivato un debolmente positivo. Debolmente positivo, che è una roba che c'è soltanto in regione Lombardia, cioè il resto del mondo non c'è, cioè o positivo o negativo. Di solito un debolmente positivo nel resto del mondo include un secondo tampone che chiarisca se c'è o non c'è il Covid, perché il debolmente positivo è una cosa incerta. E questa cosa come ti ha coinvolto? Cioè, chiaramente, oltre al fatto appunto che la tua compagna e i figli, e poi come si è sviluppata? Mi ha coinvolto perché io ho chiamato il mio medico di base chiedendo come ci si comportava in questa situazione. E il mio medico di base ha detto che per lei il debolmente positivo è comunque positivo e che quindi mi metteva in quarantena fiduciaria. Quindi i famosi 14 giorni, che tra l'altro, cari italiani, rimangono 14. Pare che in Italia non si voglia seguire la linea iniziata dalla Francia di scendere a 10, sono 14. Intanto comincerei a lodare qui il senso civico del signor Guadalupi, che ha telefonato al medico di base, il quale ha detto debolmente positivo, sta in quarantena e lui si è fatto i suoi 15-14 giorni in quarantena. Ma sono passati questi giorni? Sono scaduti domenica. Ah, ecco. Allora, e non hai avuto sintomi, non hai avuto niente? No, assolutamente. Perfetto. Assolutamente. Mi sei libero. L'unico sintomo che ho avuto, scusatemi l'espressione, è stata una forte orchite, perché due settimane chiuso in casa da solo, senza neanche la possibilità di poter lavorare in smart working, perché comunque sono stato messo in malattia e quindi non potevo lavorare. Però sono passati, dai, il passato è passato. Appunto. Perché in realtà la quarantena si finisce nel momento in cui si ha l'esito del tampone. Allora, la mia dottoressa mi aveva detto che appena iniziata la quarantena, subito sarei stato contattato dall'ATS per fissare la data del tampone. Non sono stato contattato, quindi dopo 3 giorni ho chiamato io per sapere cosa avrei dovuto fare. Il numero di telefono che avevo in realtà ha un risponditore automatico, quindi puoi avere tutte le informazioni che vuoi, ma non puoi parlare con nessuno. Quindi se hai delle richieste generiche che puoi vedere tranquillamente su internet o che ti può dire anche il tuo barista, non c'è problema. Se invece hai delle domande specifiche, non c'è nessuno che ti sappia dare le risposte. Insomma, sei rimasto ingabbiato in questa situazione in cui nessuno ti cerca per farti il tampone, che però ti è necessario per essere considerato libero a tutti gli effetti. Libero. Sì, considerato anche che in realtà la mia era una quarantena fiduciaria, quindi io non ho avuto sintomi, non ho avuto il Covid e quindi devo avere la certezza di essere guarito. Io non l'ho mai avuta, non ho mai avuto il Covid, non ho mai avuto sintomi, e anche la bambina in realtà ha fatto questa quarantena e alla termine della quarantena lei sì è stata chiamata per fare il tampone che è risultato negativo. Quindi in realtà io sono imprigionato in casa senza nessun motivo. No, cioè, fammi capire, quindi alla fine, tra l'altro, la bambina è stata definita non debolmente positiva, un ascoltatore ci dice come può essere un po' incinta, cioè è stata definita invece negativa. Esatto. Per cui tu hai messo in moto tutta questa procedura sulla base di una cosa che poi in realtà non esisteva. Esattamente. E adesso non sai come uscirne. Però adesso tu non te la senti adesso di uscire nonostante il tampone della bambina sia negativo. No, non è che non me la sento io, non saresti posso farlo. Saresti obbligato. Ho capito, però, fino a quando l'ATS non dichiara finita la mia quarantena, io non posso uscire. Sì, ma dai, ragazzi, ma così, allora voglio dire... Vabbè, adesso se io dico no, esci di casa, vengo io additato a quello, no? Beh, se tu uscissi senza un via libera, diciamo, dall'autorità competente, potresti anche avere dei guai, forse anche penali. Ho capito. Esatto. Sì, vabbè, ma dai, ma c'è una follia. Chiunque ha ascoltato questa storia capisce che è una follia. Ma questo, tra l'altro, cioè, invece, se non ti chiamano mai, bambina, se ti facciamo buon Natale fino adesso, non ti chiameranno mai. Non ti chiameranno mai, rimani a casa tutta la vita. Ma dai, ma cos'è questa cosa? Sono come i giapponesi nella giungla, che non è finita la guerra e nessuno gliel'ha detto. Quando tra 10 anni troveranno Teo Guadalupe ancora in casa, oh, va che il COVID non c'è più, Teo. No, aspetta che l'app di maniera scollegati e ricollegati, Leo. Ti faranno così, ti busseranno alla porta dicendo: Teo, ma cosa ci fai qui ancora a casa con la barba lunga? Sarai ancora lì. Sì, ma anche perché poi adesso... Scusa se sorridiamo di questa cosa, ma un po'... Io voglio dire, sarebbe stato sufficiente farmi un tampone a inizio quarantena, cioè al di là del fatto che sarebbe stato sufficiente rifare il tampone alla bambina immediatamente e non dopo 2 settimane, perché il secondo tampone al 99% avrebbe detto negativo, ma sì, oppure avrebbe detto positivo, ma almeno tutto questo aveva un senso. Scusa, una domanda, ma non è il caso, lo so che è brutto, uno deve pagare, farselo privatamente, ormai uno chiama, se lo fa fare privatamente, dice: c'ho il tampone negativo, non rompetemi le scatole. Assolutamente sì, però ci sono due cose. Uno è la questione pratica, nel senso che comunque io sto continuando ad aspettare questa chiamata, perché se io avessi prenotato ieri, per capirci, cioè ho aspettato lunedì vedendo se mi chiamavano loro, se avessi prenotato ieri, il primo posto disponibile era giovedì, quindi domani. Sì. E quindi l'esito del tampone mi sarebbe arrivato settimana prossima. Sì, comunque speravi di cavartela prima. Comunque sì, devi. Lo so, però in attesa però di aspettare così. Sì, ma sai come quando sei alla fermata dell'autobus con l'autobus che non arriva e dici: vabbè, vado a piedi e passa. E poi dici: beh, però cavolo, ho aspettato fino adesso, arriverà sto cazzo di auto. Scusate l'espressione, sì. Non volevo dire autobus. E così tra 10 anni, toc toc, signor esatto. Guadalupe. Tra l'altro, ma io stavo ancora aspettando, perché vabbè. Tra l'altro, però, te dicevi tu che hai scritto cosa. Sì. Hai scritto anche questione... delle mail, no? Hai scritto delle mail, ho avuto la sensazione quasi di rompere la scatola. Sto mandando di mail alla DIP19 chiedendo appunto spiegazioni, e ripeto, la cosa più frustrante di tutta questa situazione è essere il rompiscatole. Sì, Luca da Brescia come il rompiscatole suggerisce come... denunciali per sequestro di persona, Luca da Brescia. Quasi sì, ma stavo dicendo che però ne faccio anche una questione di principio, nel senso che perché io devo spendere 100 euro per un tampone nel momento in cui io non ho avuto nessunissimo sintomo? Questo è vero. Il tampone lo fai se tu hai il dubbio di essere malato. La verità è ma che se maledetto io non ho avuto sintomi, sì, ho fatto 2 settimane di quarantena, è evidente che io non ho il COVID, perché devo fare il tampone? Perché è maledetta quella chiamata al medico. Che in realtà i nonni della bambina hanno chiamato il loro medico di base, che ha detto: ah no, basta, è debolmente positivo, non c'è bisogno di fare la quarantena. Quindi loro sono tranquillamente in giro mentre io sono chiuso in casa da quasi 3 settimane. Teo, ci sentiamo presto, adesso mi andrà al traffico. Io dai. Ma secondo me la situazione andrà avanti per parecchio, quindi... Ma no, dai, sì. Ecco, ma nera il solito. Possiamo sentire io tra dico, 10 giorni. Chiama e fatelo privatamente. Guarda, lo paghiamo in 3. Ci mettiamo io, te, Manera, e lo paghiamo, e poi arriverà subito. Appena lo fai privatamente, arriverà la chiamata gratuita dell'ASL. Questo è ovvio, però almeno ne esci da sta situazione. Però facci oppure sapere. Deve fare come hai fatto tu, che ti sei fatto un finto certificato di tampone negativo. Quando... Sapeva. Scusa, ma tu te la prendi con Mauro Meazza, ma perché devi cambiare il tuo bersaglio? Cioè, stavi bene così, che te la prendevi tutta con Meazza, adesso hai ragione, da un po' di giorni hai iniziato a prendertela con me. Vabbè, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Z Sì, comunque Manardo Leonera, sei proprio un barbone. Com'è che l'ha chiamato Manardo Leonera? Stupendo, stupendo. Allora, signori, ecco, chiudiamo un po' parlando ancora di Covid, perché è venuto a trovarci con grande gioia nostra il professor Picchio, virologo, che ogni tanto viene a darci... Professor Piero Picchio, per cortesia, scusi. Professor Piero Picchio, sì, per cortesia. Buongiorno, ecco, professore. Grazie. Come sta? Tutto bene? Ma guardi, ho trovato qualche minuto per voi, anche se con la ripresa del palinsesto autunnale la mia agenda dell'ospitata è già fittissima. Ho solo un buco il 19 gennaio, alle 16:15, magari metto una lezione di spinning. Addirittura. Vabbè. Comunque sono arrivato da voi direttamente in aliscafo, perché sì, ero a Venezia. Ho sfilato sul red carpet del festival insieme a Tilda Swinton. Poi l'ho fatta spostare per essere da solo nelle foto, io virologo. Perché noi virologi ormai siamo le vere star. Lei, dottor Mila, ammesso che lei sia laureato, ma sì, sono laureato in scienze politiche, quindi insomma, beh. No, ma non rida così, è una laurea. Comunque. In cosa laureato? Non ho sentito bene. Scienze politiche. Comunque lei ha fatto bene a invitare un vero laureato come me, così posso dare risposte chiare rispetto al Covid-19, io che ricordiamo finto, si chiama Covid-19 perché lo puoi prendere fino a 19 volte. Non è proprio ricordatevi così. Bene. No, perché è del allora 2019. Sono qui. Vabbè, per dare risposte chiare agli ignoranti. Ma, no, allora, agli ascoltatori. Ignoranti. Se vuole io ho qualche domanda di qualche ascoltatore o ascoltatrice. Ma però, guardi, prima vorrei precisare se però perché li chiama nel modo giusto, io le faccio le domande. Guardi, ignoranti perché probabilmente non sanno nemmeno cos'è un orbitale molecolare. Orbitale no, e pretendo di tornare alla normalità senza sapere cos'è un orbitale molecolare. Orbitale molecolare. Allora, prima so, imparate so, cos'è un orbitale so, molecolare, so, poi torni alla normalità. Perché vediamo. È la distribuzione spaziale degli elettroni in una molecola. È così, scusi, Wikipedia, lo dice Wikipedia. Sì, il laureato in scienze politiche che consulta Wikipedia, tutto vabbè, torna. Senta, vabbè, comunque iniziamo. Chiara, allora vediamo, le faccio un'altra domanda senza che lei vada a consultare Wikipedia. Vediamo. Chi ha vinto il Nobel per la chimica del 65? Allora, tempo scaduto. Aspetti. Vabbè, porca. Sì, però anche voi lì in redazione siete degli immobili, non... Vabbè, niente. Senta, parliamo di quello, noi parliamo di chi ha vinto il Nobel, le cose un po' più interessanti. Lei di cosa parla con i suoi amici? Guarda, domani piove, pioverà, fa caldo. Questi sono i vostri argomenti. No, a volte anche qualcosa... In ascensore, c'è caldo, c'è freddo in ascensore. Noi diciamo chi ha vinto il Nobel. Sì. Certo. Parliamo dell'orbitale molecolare, conversazioni lievemente più interessanti. Vabbè, senta cominciamo un po' con la prima domanda. Ecco, Chiara da Treviso ci chiede quante probabilità di contagiarsi ci sono se prende il treno. Allora, cara Chiara da Treviso, detta anche alta velocità dell'ignoranza. No, no, ma che battuta pessima. Allora, sì, noi virologi insieme ad alcuni luminari della matematica abbiamo elaborato un algoritmo raffinato che calcola la possibilità di contagio. Si prende l'età del paziente, la si moltiplica per 7 come le vite dei gatti, si divide per i componenti del nucleo familiare, si aggiunge l'ISEE e il risultato è, cara Chiara, stare a casa. Ecco, è inutile fare domande alle quali non potresti avere risposta. Stai a casa, cara Chiara. Vabbè, comunque, ignorante da tre mesi. No, Chiara. Sì. Comunque Robert Woodward ha vinto la Bravo, Wikipedia. ha consultato. Matteo da Pisa, invece, è andato con le sue chiede questo. Digitare Wikipedia. Matteo sì. da Pisa, è più sicuro usare i guanti? Chiede Matteo da Pisa. Allora, caro Matteo ignoranze, anzi direi la risposta può essere dipende. anzi dipende, visto che sei di Pisa. No, vabbè. Non ci credo. Matteo mi chiedi se è più sicuro mettere i guanti. Ma sì, se devi potare le rose. Anche se vai a sciare, altrimenti ti scivolano le bacchette anche se fai il portiere. Perché se fai il portiere probabilmente, ecco, hai bisogno dei guanti per riuscire a prendere una palla. Invece per quanto riguarda il virus, non so come dire che basta lavarsi le mani frequentemente, ogni 50 secondi, va bene, ogni 50 secondi deve lavare le mani, caro Matteo da Pisa ignorante, oppure in alternativa puoi stare a casa. Eccoci, bene. Senta, abbiamo un minuto, se può, professor Picchio, abbiamo ancora un minuto. Che protervia la prosopopea. No, perché una domanda anche curiosa, curiosa, illuminare e pretende di dettare i tempi. Senta, Giovanni da Como chiede, ma è vero che la barbabietola aiuta a prevenire il Covid? Che domanda strana. Allora, visto che abbiamo solo un minuto, rispondo in questo modo. Anche 30 secondi. Questa è la unica risposta che ti... Sì, la sola risposta che ti posso dare, caro Giovanni, ignorante da Como. La barbabietola contro il Covid, la castagna in tasca contro il raffreddore, latte e cognac per il mal di gola, guarda nel collo della bottiglia dell'olio così ti passa l'orzaiolo. Sì, effettivamente questa condivido con lei, la barbabietola al Covid, direi di no. Professor Picchio, la dobbiamo salutare, i tempi radiofonici incombono. Noi ci ritroviamo domani. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.